Zelensky, mi stai rompendo il sistema nervoso, hai capito bello bene? Cosa vuoi che ti faccio parlare con Muro? Continua bello bene, continua che ti telefono alla una di notte. Continua, anche alle due ti telefono, così impari. Siamo alle 4, Natalie. Buongiorno. Certo, credevo che era Luca. No, chi fischiava non ero io, non sono avvezzo a fare i fischi neanche quando devo chiamare qualche animale. Tutto bene, sì, Natalie? Sì, tutto bene. Tutto a posto, da mettere a posto, diciamo così. Non ti ho più sentito che... No, giusto adesso che stavo facendo il mio solito giro, ti ho sentito che dicevi cosa al fischiatore, ma se no non entro perché non c'è niente da entrare, ecco, capito? È la qualità è quella che è, quindi non vale la pena perdere tempo. Sì, neanche io stavo entrando. Non c'è nessuno. E cosa vuoi fare? Anche qui stiamo andando a finire come negli altri posti. Sì, purtroppo. Purtroppo è così. D'altronde non puoi entrare per sentire i fischi e fischietti. Oramai. Purtroppo. C'è poco da fare. Purtroppo infatti cosa vuoi fare? Più che ascoltare non si può, quando uno ne ha voglia pure, perché manca ascoltando stato. No, neanch'io, no. Guarda, per un attimo ho pensato di togliere anche l'antenna, figurati. Perché poi ho pensato che mi serve per su e per giù, dato che è molto larga di banda, quindi ho detto l'utilizzo comunque ce l'ha, ecco, giusto per non buttare via soldi, ma se fosse stato una mano qua sarebbe già a terra. Sì, infatti, quando ne cade questa non è piatto più. E tu che ti dovevi mettere tutto nuovo, hai visto? Invece mi è bastato un imbecille. È successo dopo quello che è successo. Sì, vabbè. Finché il mio giro acceso non so neanche io come, perché era già acceso l'apparecchio, come ha attaccato l'interruttore qua. Si è acceso anche lui. Però era con lo squelch, capito? E quindi è come era muto. Dopo è entrato il fischiatore, che sicuramente era Luca, e gli ho detto che lo facevo parlare col muro se non entrava a parlare. No, forse no, perché qua il segnale era molto forte, forse non era lui. Sì, vabbè, o lui o non lui, se non vivo entrare non c'entri, vuol dire che non gli piaceva la compagnia. No, io sto sempre facendo ascolto, però su altre frequenze, perché come sai c'è tantissima attività e quindi almeno lì ci si rifugia. Però il caldo non ti aiuta, perché ovviamente le apparecchiature generano parecchio calore. E non è periodo questo di avere ancora più caldo di quello che c'è. Infatti qua ho messo anche un piccolo ventilatore per raffreddare anche gli apparecchi, oltre a quelli già che ci sono in dotazione. E dura anche la prossima settimana. In estate ci sono i cartelli, quelli luminosi, con l'allarme della protezione civile. Sembriamo come in guerra. Sì, ma davvero, questa volta è un macello. Cosa vuoi che ti dica, Gianfranco? Purtroppo. Ma io ho intenzione di vendere tutti gli apparecchi questi qui e di mettere solo roba che riceve e basta, in modo che non ho neanche la tentazione di poter parlare, capito? Se ne ho voglia, se no non metto nulla, ne stacco tutto e via. L'altra volta l'ho preso, ne avevo staccato tutto. Ma purtroppo è così. Poi c'è questa strana mania che quando le cose sembrano che stiano rinascendo, arriva il tipo motocoltivatore, ne straccia tutto, capito? E quindi è finita sul nascere. Oramai no, praticamente non c'è più nessuno, non sento, neanche qua non sento più niente. E infatti entrava Marco, manco a lui ho sentito più. Cosa vuoi fare? È che mi rompe le scatole, mi ho messo a posto tutto qui e dopo per nulla. Mi hanno detto, qualcuno mi ha detto che gli unici che ci sono alcuni ruffiani che di professione fanno le registrazioni per poi fare certe telefonate per far crescere l'erba cattiva, no? Pure. Andiamo bene allora. Sì, ma sono sempre gli stessi, già si riconoscono. Sono gli stessi che hanno fatto altri casini, non solo qua, ma anche altrove. Capiscimi al volo. E purtroppo questa gente c'è, è così, capito? È così. Vabbè, chi se ne frega. Per me problemi non ce ne sono. E quindi se non sono qua, sono là, sono là, sono da qualche altra parte. Quindi è tutto relativo. Però per persone come te che comunque ci passavano la serata, eccetera, è un'altra conferma che ci sono persone che non ragionano, sono proprio, guarda, non vorrei parlare di invidia perché poi queste persone non entrano perché spesso non sanno neanche cosa dire, però almeno lascia parlare di altri, no? Infatti vivi e lascia vivere, invece no. No, assolutamente no. Sono così da sempre, non si può fare niente, capito? Non si può fare niente, perché se non è quello la portante, se non è l'altro, è andare a fare certe azioni che fanno, ecco. Comunque, l'importante è la salute, diceva quella nata lì, ma anche quella di questi tempi è difficile tenersela. Hai proprio ragione, anche quella è difficile. Cosa vuoi ti dire? Purtroppo, Gianfra, l'unica cosa che mi dispiace, mi ho venduto quei due HF, se no almeno lì potevo ascoltare qualcosa. Ma se me ne entra in mano uno, ne tolgo il microfono e lo sigillo solo per ricevere, tanto non ne uso in trasmissione, perché tanto come apro bocca subito vedono cosa è. No, c'è gente che è malata, che è profondamente malata, c'è gente che guarda, io non so come chiamarla, se qualche forma di malattia o se semplicemente è qualche forma di invidia o se ce l'ha con qualcuno, ma insomma già ne abbiamo visto, Natalia, già ne abbiamo visto di comportamenti scorretti e scellerati veramente, però il loro compito è quello di fare danno e a quanto pare ci riescono. Ti informo comunque che se vuoi ogni tanto ascoltare qualche cosetta, ovviamente non hanno orari normali, forse nel pomeriggio, nel tardo pomeriggio, nella sera, c'è anche un canale OM, diciamo, su Cibitalk, c'è OM2, OM1, una cosa del genere, quindi se lo cerchi puoi fare anche ascolto lì. Non ti ho seguito che ero al telefono, Gianfra. Se puoi ripetere per cortesia. Dicevo che se vuoi fare anche ascolto di alcuni radioamatori, anche se WL, su Civitale, che ci sono due canali che, se non ricordo male, si chiamano ITA OM1 e ITA OM2, dovrebbero essere quelli lì, se non ricordo male. E così ti fai un po' d'ascolto. Diciamo, no, passi la serata, no? Sì, ho capito, poi mi si è rotto anche il telefono. Devo pagare un debito che mi sono messo per fare una cosa e quindi qua sono col telefono vecchio adesso, perché sono andato a accenderlo l'altro giorno il telefono e non accendeva più, non caricava, morto del tutto. E a pensare, ne ho regalato tanti di telefoni. Se me lo dicevi magari qualche mese prima te ne caricavo. Sì, guarda, perché era nuovo il telefono praticamente. Ma hai chiamato? Era l'ultimo che ho preso, adesso sono col telefono vecchio. L'ho messo alle condizioni di fabbrica e mi ho attivato questo qui praticamente, perché quello l'ho dato a un amico a vedere se riusciva a aggiustarlo, perché ho provato a forzargli l'avvio, nulla, morto del tutto proprio. L'ho dato invece alla scheda madre, mi stavano dicendo. Con certi telefoni non vale la pena neanche perderci il tempo. Sono oramai troppo complessi, troppo piccoli anche da metterci in mano, quindi anche lì è tutto più complicato. Quindi sei totalmente disarmato, dai. Mi sono rotto le scatole più. Disarmato, darcelo il telefono, un altro Samsung, è questo qui, quello vecchio che avevo. Meno male che non l'ho dato. E praticamente sto usando quello. Quello nuovo, quello che si è rotto, era di quelli che non si possono aprire, che hanno lo sportellino per mettere la scheda e la. Era un dual sim e poi c'era la scheda di memoria lì. Ed era di quelli che non si possono aprire. Ma era un Samsung A20 quello. Ma c'è molto traffico, ho sentito uno che ha dato una strombazzata. E qua, passano di brutto, strombazzano, senti tutto. Le ambulanze ogni 5 minuti, lo stesso. E con tutta la gente che stanno investendo ultimamente. Cosa vuoi ti dire? Ma qui è sempre stato un macello. Ma solo per quello la campagna non c'è oro che la paghi. Ah sì, guarda, in questo periodo natalino devo dire che è veramente è stata una cosa. Andarsene in campagna è stata veramente un'idea non felice di più, perché innanzitutto c'era la possibilità, io poco fa ero fuori e c'era un po' di freschetto e me lo sono goduto. Adesso sta iniziando a scaldare, perché la sera poi siamo a livello di 38-39 gradi, quindi riguardo a quello non c'è dubbio, ecco. E infatti, Catalì, non sentivi nulla dove ero io, nulla. E la pace più totale. poi io sono una persona riservata. Guarda, a me era poca la gente che mi conosceva, solo perché ero obbligato magari per qualcosa, se no io non cercavo a nessuno e nessuno mi cercava. Guarda, la pace più totale dove ero io. Nel frattempo che tu stavi parlando mi è arrivata una cosa interessante. Meno male, sono riuscito a recuperarmi 150 euro dal cashback, perché l'avevo fatto, l'anno in corso, no? Da gennaio a giugno avevo totalizzato 150 euro di rimborso fiscale praticamente tramite cashback e me l'hanno accreditato adesso, quindi hanno mantenuto la promessa nonostante l'abbiamo bloccata adesso grazie all'intervento di Occidriglia, che è contrario, ha capito mica degli evasori fiscali. E infatti, via. E vabbè. Buon per te, Gianfra. In cassa. Sì, ma è una cosa aperta a tutti, ha chiuso il banco, anche la carta di credito, che oramai è la maggior parte, penso che i contanti non sono importi in giro per ovvi motivi, innanzitutto perché poi ti sbuffano alle casse, no? Quando vai a pagare, perché ci sono gli anziani e spesso che non vedono gli spiccioli di lì, sono sempre somme con i, che ne so, 45 centesimi e non li trovi, se non so, insomma un casino, e quindi la gente dietro, sai quanto c'è anche molta maleducazione, quindi non hanno la pazienza e si mettono lì a sbuffare col banco, ma con la carta invece lo passi e sei tranquillo. Però una cosa buona che c'era e si dava pure l'incentivo per usarlo, adesso è bloccato, ma penso che riusciranno a ripristinarlo, perché tanto oramai tutti hanno capito che questa palla però soluzioni non ne ha, capito, come tanti altri che si sentono. E allora, l'ho sempre detto io, se tu capi, se tu barretti, invece che andovi ne uno di capo, è solo un barretto. Capito, Gianfra? E va bene, meno male che quello tira dritto. Ne possono dire di tutti i colori, loro, e lui sempre tira dritto e fa quello che pare piace a lui. Ed è giusto che sia così. Infatti, perché sta andando bene la cosa? Perché comanda solo lui. Sì, in un certo senso a qualcuno dalla caramella, no? Come ai bambini. Si dice sì. Alla fine però fa quello che vuole lui, giustamente, perché adesso più che mai ci stanno proprio con gli occhi addosso gli altri, e se sbagli, tra l'altro credo proprio in questa settimana dovrebbe arrivare la prima tranche di 20-25 miliardi, e penso che a nessuno convenga perderla, ecco, perché può cambiare veramente dal giorno alla notte se usati bene. Speriamo che sia così, poi sai, tutto è possibile. In Italia sì, speriamo che vada tutto bene. Ovvia, che specialmente li usino bene questi soldi. A dare lavoro, a togliere un po' di giovani dalla strada, a iniziare un po' a mandare a casa un po' di gente che ha lavorato per tanti anni, ecco, e non ce la fa proprio più, perché l'età è quello che poi dopo tutti questi eventi che sono successi è ancora peggio. Quindi iniziare un pochettino a rinnovare, perché noi siamo oramai troppo vecchi per fare certi lavori, bisogna lasciare spazio ai giovani, che ce ne sono troppo in giro. Con comunque hanno pizzicato quelli di Sorso, perché hanno combinato lì quel casino, sembra che siano ragazzi del nord Italia, quello del furto delle sedie a rotelle. Non ero informato di questa cosa, che furto di sedie a rotelle addirittura. Sì, è una cosa vergognosa, veramente, ci sono i filmati, una cosa indegna. Tu sai che la Socio c'è un'associazione, di avere anche visto tante cose, di questi ragazzi disabili, e c'hanno le carrozzine sportive, io mi sono preso anche il gusto di controllare quanto costavano, ce ne sono che partono dai 2.500 euro ai 5.000 euro e oltre. E non te, e ovviamente di lì lo Stato non ti dà contributi perché sono cose per fare sport, capito? C'è solo sportivi. E questi imbecilli hanno forzato la palestra dove erano custodite e sono messe in strada a danneggiarle, a fare tre ragazzini minorenni del nord Italia. Adesso questi qua sono bloccati e li devono ricomprare praticamente, quindi figurati al danno. Mi auguro che le facciamo pagare integralmente ai genitori, perché è veramente una cosa assolutamente vergognosa. Sono vergognosa. Tu vedi quelli che le usavano, che già sono come sono, figurati poi a fargli un danno del genere. Hanno spezzato le gambe a tutte e tre. Dobbiamo andarci anche loro in carrozzina a vedere se le piace e cosa ne pensano. Perché finché non si tocca con dito certe cose, a quanto pare la gente non impara. Ma nata di queste cose, io devo dire che quando eravamo piccoli noi erano immaginabili, la verità, e anche perché poi se le facevi a casa non ci potevi tornare, perché veramente avresti gettato vergogna sulla famiglia, su tutto, tutti gli altri non proprio neanche guardato in faccia. Diciamo solo Gianfra, c'era altra educazione, noi non siamo buoni a educare, c'era già un'altra educazione, non potrevo permettere io di dire qualcosa a mio padre che non ha, lo schiaffo che mi tirava mi alzava 2 metri da terra, ma stiamo scherzando. Sì, purtroppo è così, io non sono... anche tranquilla, data in maniera amorevole se vogliamo, però giungere a questi livelli veramente non sempre si può trovare la giustificazione che trovano in tanti, vabbè, ma sono ragazzi, il fatto di essere ragazzi non è che ti possa giustificare in tutto per tutto, perché ci sono tanti altri ragazzi che queste cose non le fanno, ecco, tutto lì. Sì, ma c'era altra educazione, ai tempi nostri non ce lo sognavamo neanche di fare cose del genere, ma non solo, anche di parlare male ai genitori non esisteva. Guarda che io ho visto mio padre buscare da mio nonno, mi tiracuto un ciaffu e c'aveva quasi un'ottantina di anni, aveva mio nonno minimo. E a babbo gli ha tirato uno schiaffo da grande, sposato, e aveva anche a me figlio. L'ho visto io a mio nonno tirare uno schiaffo a mio padre, figurati. Io mi ricordo che i miei zii a mia nonna le davano del voi, anche a mio nonno, sono guai. Anche mio padre gli dava del voi, sia a mia nonna che a mio nonno, dico c'è, con tanto di rispetto. Non lo vedi che non esistono più queste cose di fiducia? Purtroppo una famiglia. Bisogna dire però che ci sono fortunatamente tanti bravi ragazzi, studiosi, che ci tengono al loro futuro, lavoratori, dirigenti, questo è da dire. dire, non sono tutti così, e questo bisogna riconoscerlo, per nostra grande fortuna. Speriamo che questi ragazzi continuino nella loro strada. Sì, infatti, oggi manco toccare, li puoi, se no ti denunciano, gatta. Io ho sentito gente dicendo, se mi tocchi telefono azzurro, ma roba la chiudi. Gatta, al telefono azzurro telefonando. Sì, anche quello c'è. Si va da un eccesso all'altro. Purtroppo Natale è così. Non c'è molto a stare allegri. E ci sono anche figli che picchiano i genitori, giusto per capire a che punto siamo arrivati. O per chiedere soldi, e poi magari comprarsi la dose, ma quante volte l'abbiamo sentito? E quelli perché sono drogati, sono, già lo so, c'è gente che picchia i genitori, non si può dire a fare una cosa del genere, ma vabbè, era pugile, c'aveva una mano e sembrava una palla di fichi d'India. No, ma poi ti avrebbero buttato fuori di casa, per molti lati c'era anche una severità eccessiva, però era anche vero che a quei tempi l'educazione era molto molto molto molto importante. Poi, ripeto, c'erano anche gli eccessi. Quello già è vero, che c'erano gli eccessi e tutto. Oh, mio nonno era una persona autoritaria, mia nonna lo temeva, guarda, era proprio una persona severa, autoritaria, mamma mia, era proprio un uomo da prendere con le molle. C'era un'educazione e non ti potevi permettere, siccome ci avevano anche sorelle femmine, a dire una parolaccia, cioè anche in casa di mia madre. E i miei zii non dicevano zucca alla rovescio, assolutamente, perché c'era mia madre che era femmina, la sorella, e guai a loro se potevano dire una cosa del genere. Assolutamente, né parolacce, guarda, un'educazione è una disciplina meglio dell'esercito. Ma infatti serviva proprio per quello, per prepararli poi all'età adulta, in modo da capire come ci si dovrà comportare. Purtroppo, ripeto, fortunatamente non sono tutte così le persone, però c'è molto da imparare ancora, perché certi sono veramente degli asini a 360 gradi. E così nada lì. Vabbè, torniamo ad altre cose. Quindi mi stai dicendo che non stai neanche più facendo ascolto, non c'è niente. E non te ne viene voglia per ascoltare sempre le solite cose, voi. Non me ne viene voglia, perché io ascoltavo molto in HF, ascoltavo nelle bande alte quando c'era qualcosa, ma adesso neanche nelle bande alte, il ricevitore per le bande alte già ce l'ho, ma non senti nulla, sempre le solite cose, la dei amatori in ISBA. Ah, ti riferisci a VHF? E allora? Ah sì, in effetti sono molto rari. E poi Natale, il discorso è anche quello delle antenne comunque. Io quest'estate, in questo periodo, ho ascoltato molto, molto fuori, in continente, eccetera, però ovviamente con le antenne che ci hanno prestazioni particolari, ecco. Non puoi ascoltare con lo semplice stilo e quelle cose lì. Ho seguito tante operazioni di questo periodo qua sono handicappato anche per l'affare delle antenne, in campagna già potevo sbizzarrirmi. Lo so, ma però ovviamente ognuno ha i suoi problemi. Bisogna accontentarsi, di quello che sia. Sì, infatti, in campagna sì che ascoltavo, facevo, io ne ho fatto di tutti i colori, ma potevo fare tutto. Ah, io ieri, infatti, ieri mattina mi stavo annoiando perché è come essere agli arresti domiciliari, sai, non puoi uscire perché c'è troppo caldo, non puoi fare perché c'è questo, c'è l'altro, insomma tutta una serie di problemi veramente che a lungo andare ti buttano anche un po' giù. Quindi ho preso la macchina, ho detto beh, caldo non caldo, adesso me ne sto, tanto c'ho l'aria condizionata, e me ne sono andato a fare un giretto, a fare prove, come dici tu, a parlare col muro, no? Perché io ogni tanto parlo col muro, fortunatamente grazie alle nuove tecnologie del digitale ci sono gli apparecchi che ti rispondono, no? E questo serve per sapere dove quali sono le tue zone di copertura in base all'antenna, e quindi ogni tanto ne approfitto, esco. Ieri sono finito al Nulvi. Mi ho misurato tutto il percorso, pezzo per pezzo, dove arrivavi, dove non arrivavi, con Asilio Ponte oppure in diretta, e tutto in... ormai utilizzo solo l'UHF, capito? Tutto in UHF, e quindi ho perduto un po' di tempo, ecco, giusto per sapere con una certa esattezza lavori di rinnovamento sono andati a buon fine. Sì, ho capito, anche quello è un modo per... insomma, tu già lo puoi fare, io che faccio? Mi metto in macchina e parlo con muro. Quello sì, Natali, purtroppo è andata così, che ci vuoi fare? E spesso anche quello lì, ad esempio, probabilmente dovuto sempre a quei personaggi strani che quando c'è una passione ti mettono, ti bastano tra le ruote. E infatti, ma cosa vuoi che ti dica? Perché non ne fanno loro, non ne devono fare neanche gli altri. Ma così, purtroppo, e cosa vuoi fare? Io ne l'ho tolta pure l'antenna dalla macchina, ci ho messo al suo posto un'antenna VHF di quelle piccoline, e ne l'ho tolta quella CB, quindi manco baracchino c'ho in macchina. E tanto non penso che serva granché in macchina. Spesso ci sono problemi a sentirsi così, una portante, un fischio, e track e track, cosa vuoi, continue interruzioni, poi non ne parliamo, cosa vuoi fare? Infatti, me l'ho tolta proprio perché non ne stavo usando prima, infatti me l'ho tolta per quello, perché non la stavo usando, cioè, che era, non era magnetica, era attaccata alla cappotta, alla basetta, e ne l'ho tolta via, ci ho messo un'antenna VU che sembra di autoradio, e quindi la lasciamo così. Infatti è l'unica, ma poi purtroppo perché non serve più a niente oramai, anche i musicamionisti sono con sistemi, diciamo, con telefonino, un'applicazione del telefonino, parla un più lontano e non li disturba nessuno. E così sta diventando digitale, che secondo me è stata una cosa che ha salvato ancora, che ci ha permesso, diciamo, che permette comunque di continuare a fare attività, perché se no veramente ce ne aveva buttato via tutto. Perché almeno di lì sai chi entra, con chi stai parlando e se c'è qualcosa che non va, secondo la tecnologia che usi lo puoi anche bannare, ecco. Sì, infatti. Invece sarà il baracchino normale, non lo sta usando più nessuno, penso. Ma io quando scendo giù a Porto Torres li vedo per l'imbarco, sono sempre di meno, quasi tutti non ne hanno, sono solo alcuni che ce l'hanno, ma penso che non lo so, da 20 che ne senti al giorno ne senti uno al mese, quindi perché ripeto, oramai ci sono queste applicazioni, fanno prima lì e vanno più lontano e si tengono in contatto. Ma infatti non è più nessuno di questo apparecchio qua, io non me ne l'ho portato qui e non lo uso, l'altro omologato, quello che avevo in macchina, me l'ho preso e l'ho portato qui ed è facendo il soprammobile, lo userò come fermacartola. Poi adesso ti rivendono a 4 soldi, ce ne sono da, ho visto oramai certi da 80 euro, di tutti i prezzi, di tutti i gusti. Hanno sempre un mercato piccolo e quindi non tutti li vogliono, ecco. Cioè non è come prima che si vendevano come il pane, adesso non fanno testo. Natalino, come siamo di tutti. Infatti io manco quel digitale, m'ho preso, tanto non lo puoi usare e basta, non c'è nulla da fare. Cazzo, me lo prendo io e non ce l'ha nessuno e quindi cosa vuoi fare? No, poi no, se non c'è di accesso come fai? Sì, è vero, potresti ascoltare, ma adesso ad esempio non riesco più a contattare il ponte lì che ci avevamo piazzato di Oristano, non so se sia bastato che cosa, quindi anche quello è venuto meno. C'è anche un discorso che chi faceva questi lavori poi ha una certa età e quindi non probabilmente non ci sale più in montagna, capito? A riparare questo, a riparare quell'altro, no? E anche loro dicono, ma chi me lo fa fare? Magari si è bruciato col fuoco che hanno messo, che li avrei buttati io quei piromani in mezzo al fuoco a vedere se gli piaceva. Sì, anche quello è un altro bel cruccio da portare, per carità, cioè stanno rovinando tutto, non solo la Sardegna, ma tutto il mondo, questi, a forza di mettere incendi, disastro, fidati che c'è quello ancora in Siberia che è mesi che sta bruciando, mesi e mesi di fuoco che non riescono a spegnere. Una cosa, guarda, terribile. È una cosa allucinante, boh. Dimmi tu. È tutto il mondo che sta pigliando fuoco. Stanno distruggendo il pianeta. Parecchio messo male questo povero pianeta. Caro Natalino, ci dobbiamo scegliere un altro posto per andarcene. Magari forse è possibile. Ma tanto chi ci abita non ci vuole, perché ha capito che siamo razza amara, che l'essere umano è meglio tenerlo lontano. Infatti, se ci hanno spiato lo sanno che siamo razza amara. E non ci vogliono, no. La nomenza diffusa, no? Per carità, come siamo grati. Ok, allora Natale, ma almeno stai uscendo, se non altro, puoi andare a consolarti, a uscire, non so, a prendere un gelato o le cose lì. Oh, non sto uscendo, la sera non sto uscendo, la mattina sono andato al bar che l'hanno messo sotto casa proprio. E lì mi ho preso una pasta e un caffè, però dopo ho visto che non mi rispondeva un amico mio che doveva venire lì, e allora me ne sono salito, dice che si è sentito male, vabbè. Che può essere? Sì, Luciano si è sentito male. Vabbè, ma comunque puoi uscire, Natalia, fatti una passeggiata quando c'è meno caldo, ecco, così passi un po' il tempo, perché insomma rimanere sempre chiuso in casa è pesante, diciamoci la verità. Già lo so, Gianfra, ma da solo non mi piace fare nulla, la verità. Quello è un problema, perché bisogna arrangiarsi, bisogna a tutti i costi trovare qualcosa da fare, perché sennò poi diventa anche brutta sta cosa di dover rimanere praticamente prigionieri in casa. Per andare in via Giovanni Pascoli, dove va quell'amico mio che doveva venire qua, mi tocca prendere la macchina, perché a camminare a piedi fin lì dopo mi fa troppo male la gamba, capite? Allora devo ubbigliare, ma a me mi rompe le scatole a toccare la macchina da qua, perché poi non trovi parcheggio, c'è anche quello di problema, mamma mia. Mi tocca posteggiarla lontano e venirmene a piedi qua. Insomma, non ti fa mancare niente, Natalia, abbiamo capito. È proprio vero, ha una sfortuna nera. Come diceva quello, la fortuna è c'è gabballa, ma la figa ci vede benissimo. Infatti, è proprio vero, parole sante. È così. E quanto siamo così? Già 2 anni, no? Sono pure qualcosa di più. Sì, 2 anni. Cosa vuoi ti dico? Non sono andata. Adesso deve venire quello che è in convento. Praticamente non è venuto perché c'era caldo, dice la prossima settimana, quando dice che abbassano le temperature, speriamo. Non ci ha pensato mai Natalia ad andare in convento, gira gira almeno di norma ci dovrebbe essere fresco, insomma i frati cucinano anche bene, come fai lì in convento? Fa il monaco di clausura. Gira gira, mi hai dato l'idea, mi faccio chiamare padre Conchiglio. Beh, ma anche padre Natalino, insomma, già suona bene. E se non suona la facciamo suonare, cosa vuoi dire? Sotto quei portici lì che hanno... adesso non mi viene il nome, hanno un nome anche particolare. Ah, il chiostro. Lì c'è fresco, ti metti a leggere il tuo breviario, fa la passeggiata, poi puoi andare anche a cantare, ecco. La sera vai lì, ti fai il canto e poi a cena. Allora, una passata di canto gregoriano. quello è difficile, non è... ce ne sono un po' noiosi, ma ce ne sono anche molto belli di canti gregoriani. Magari il problema è se sei suonato. È quello, che la voce non è stata educata. Non so cantare manco la sarda, io, figurati. Non ho capito, deve essere spagnoli o greci. Quelli che ci sono sotto. Natalino in versione frette. Anzi, non in versione frate. Perché il frette è un po'... insomma... un po' così. I frati sono di norma più... come si dice, più poveri, da più... più umili, ecco, hanno fatto voto d'umiltà. Infatti i preti hanno lo stipendio, capito, sono più signori, diciamo così. Voto di umiltà, di castità e di povertà, quindi è così. Invece i preti ne fanno a piedi a cavallo. Sì, vabbè, dipende sempre, anche lì non bisogna generalizzare, dipende dai preti, ci sono quelli che sono preti e ci sono quelli che invece sono lì perché qualcuno ce l'ha messi, ecco. Quindi è tutto così, nata lì, anche in quell'ambiente è difficile navigare. E tutto il mondo è paese, dice quello. Cosa vuoi? Ah, il parroco della mia parrocchia è argentino, non è neanche italiano. Quello è un santo. Prima dell'operazione è venuto qua, mi ha confessato e tutto. Bravissimo quello il prete. Sì, infatti ce ne sono, che sono bravissimi, veramente quasi dei santi. Certo, lì si comportano male, sono come le pecore, no? Come le pecore nere. Si vedono subito e fanno sempre notizia. Quelli bravi invece non li vede nessuno, anche perché sono molto umili. È sempre così e probabilmente sarà sempre così. E infatti questo qui è argentino, è questo sudamericano, questo prete che abbiamo noi, il parroco, questo qui conosce bene il Papa e tutto, infatti chi l'ha mandato è stato il Papa quando era cardinale lì. Figlio mio, tu sei troppo ignorante, devi andare a studiare, e l'ha mandato a Roma, l'ha mandato a studiare. C'è qualcuno che sta pregando Natali, giusto per rimanere in tema. No, è mia moglie che sta leggendo a voce alta quello che c'è scritto nel telefono. Lei già ce l'ha il telefono bello perché gliel'ho comprato io. E a me mi si è rotto. Natali, devi portare pazienza. D'altronde ci vuole. Sì, ma di tutte quelle cose che mi sono successe ci vuole la pazienza di Giove per sopportare. Vabbè, sarà tutto ripagato. Speriamo che me lo dia in salute, quello che ho sopportato adesso. Salute o con paradiso? Per il momento già stavo migliorando, sono arrivato già a 60 kg, sono arrivato da 52 e ne pesavo. Beh, è già qualcosa, almeno ti robustisci, magari con un po' di allenamento puoi anche pensare di camminare anche un po' su un po' a distanza, ecco, dato che sei in città. Io ne vedo anche qua gente anziana che comunque si muove anche molto, quando viene seguita dai cani, che qua anche qui dice li abbiamo, però si muove comunque. E io sono arrivato già, prima come uscivo, ma facevo pochi metri, mi faceva subito male la gamba, adesso arrivo fino a via Giovanni Pascoli, così, anche se mi fa male un po' qui, mi siedo lì e già mi passa. L'ho fatto parecchie volte andare a piedi, capito? Proprio per non prendere la macchina. A me quello che mi secca è prendere la macchina, perché qua è un macello, poi non trovi più il parcheggio, quando torni è sempre pieno. C'è da dire una cosa, Natalia, però, che se tu non prendi la macchina poi ti lascia a piedi perché la batteria non parte. Ogni tanto bisogna almeno metterla in moto. E c'è anche da dire che se non la usi poi va a finire che non te ne fa niente. Lo so, me l'ha fatto già due volte a lasciarmi a piedi, ma qua c'ho il booster e la metto in moto ugualmente. E poi lì lo so, è un disastro, perché no, c'era un posteggio, mi ricordo che era dietro, no, verso la, non proprio verso la fontana, ma sul versante della fontana, che c'è, no, c'era quella discesa, credo, dove c'è il negozio di mobili, andando un po' a memoria. Sì, ma non lo so se lì ti fanno entrare. Ah, perché hanno chiuso, perché forse hanno costruito più giù e magari se ne sono appropriati così. No, non lo so, non sono mai entrato lì, la verità. Dovrei provare a vedere se c'è qualche parcheggio lì, in modo che posso mettere la macchina lì e basta. Non devo stare due ore lì a cercare parcheggio, a fare i giri dell'isolato e poi magari parcheggiarla lontano. Sono arrivati i tedeschi. Sì, però Natalia, sono tutti così come si fanno tutti, come fai tu, alla fine di lì non si muove nessuno e quindi è un po' un macello la stessa cosa. Vabbè, però c'è anche da dire che almeno lì passa il tram sicuramente. Sì, il tram già passa qua, a Puglia. Tra l'altro, a seconda dell'età, credo che c'è anche l'esenzione dal biglietto, o perlomeno c'è il coso di la riduzione. No, io siccome ho l'invalidità potrei anche farmi l'abbonamento e non pagare. Non so, c'è un abbonamento che dice che non ti fanno pagare sui mezzi di trasporto. Però non lo fai così. Sì, sono andato pochissime volte. Giusto quando andavo all'ospedale e cosa. Ma se no non è che mi piaccia molto il treno. Una volta mi ha fatto così male la gamba, guarda, non mi sono messo a piangere quella vergogna. Quando me ne sono sceso al treno ero ancora a dolori, ma dolori furtini. Cosa vuoi che ti dica? È così. Ma a me mi pare che ultimamente si stava verificando una cosa strana, che chi è invalido spesso non chiede niente. Chi invece fa il furbo è sempre lì cercando di avere di tutto di più. E infatti io potrei avere l'esenzione dal pagare il biglietto, perché c'ho l'invalidità, no? Dice che ti fanno un tesserino, devi andare a fare la domanda, e ti danno questo tesserino, tu se vengono a controllare li fai vedere questo tesserino e non paghi. Sì, io ricordo che si faceva di qua a Canica, dove c'è il deposito, c'era l'ufficio, portavi i documenti e ti rilasciavano il coso del tesserino. L'abbonamento anche, andava a vedimarlo e non pagavi niente, quindi praticamente hai fatto vita di clausura, non c'è bisogno neanche di andare in convento. Infatti i canti me li faccio qua, me la canto da solo. Ma c'è anche il cane, quindi lo devi portare a passeggio. E quello lo porta mia moglie al passeggio. Prima lo portavo io la mattina e la sera lo portava lì, adesso lo sta portando sempre lì. È così. E io in questi giorni invece non riuscivo a entrare in macchina, perché ogni tanto mi prende al ginocchio, dove c'è proprio la giuntura e fa male il cane, e quindi vorrei entrare in macchina piano piano e niente, a me piace stare in piedi e stare anche molto e camminare, oltre ovviamente andare in bicicletta, però in quello stato tra, guarda, l'ultima volta che ci sono andato qualche settimana fa sono dovuto uscire, che erano le 7 praticamente, sono arrivato sul luogo alle 7:30 e poi alle 10 mi stavo andando perché c'era una temperatura folle, ero tutto tricia, quindi con questo caldo anche le articolazioni mi stanno risentendo parecchio. Io ero giusto entrato per fare un saluto, invece mi sono trattenuto una cosa. Cosa ti volevo dire? Quindi c'è uscita una piccola chiacchierata, dai, stavo facendo anche altro, perché io faccio sempre qualche cosetta. Ma soprattutto anche perché a quest'ora già fuori è improponibile uscire, nonostante sia in campagna, però c'è una temperatura che ti viene il chiodo dell'aserto fuori. Sì, non si può, non si può a quest'ora. Io me ne sono fuggito proprio perché quell'amico mio non mi rispondeva al telefono quando l'ho chiamato a venire al bar, perché lui veniva da me, perché io vado sempre da lui in genere, solo che adesso mi hanno aperto il bar sotto casa proprio, e qui vicino, dove c'era quel negozio che c'avevano i napoletani, e hanno messo un bar lì. Lui già c'ha la macchinetta elettrica, quell'amico mio, quello era autotrenista addirittura, ed è ridotto ad andare con quella macchinetta elettrica. Addirittura, e quindi c'ha proprio problemi gravi alle gambe.